Signore e signori, ho l'onore, in assenza del nostro presidente del comitato scientifico, professore Iedin, di incominciare, inaugurare questa seduta o questa conferenza. Come voi tutti sapete, noi ogni anno due volte ci riuniamo per discutere sui piani dell'Istituto Storico Italo-Germanico, creazione dell'Istituto di Cultura di Trento, dell'Istituto Trentino di Cultura, scusi, sotto il patronato dell'onorevole Kessler, che specialmente mi fa piacere di poterlo salutare oggi anche come nell'uditorio, che la sua presenza ci fa sempre piacere e onore, devo dire, in questi più di 5 anni di vita dell'Istituto. Lui, ogni volta che appena ha potuto venire, causa dei suoi vari impegni politici e amministrativi, è venuto sempre alle nostre conferenze, alle nostre manifestazioni. Parlo anche a nome del nostro segretario e ideatore, in un certo senso, dell'Istituto Storico Italo-Germanico, del professor Prodi, che purtroppo non può essere presente perché si trova in America, negli Stati Uniti in questo momento. Oggi si è specialmente gradito di sentire una conferenza di un nuovo socio del nostro comitato scientifico, del professore Pierangelo Schiera, che è uno dei più attivi collaboratori del nostro istituto, specialmente anche per le pubblicazioni, gli annali e le altre pubblicazioni che sono usciti a un ritmo veramente molto veloce, no? Si può dire o no? Si dovrebbe dire forse qualche altra parola che non mi viene in mente in questo momento. Ad ogni modo, il professor Pierangelo Schiera, che rappresenta una giovane, la gioventù è una cosa relativa, giovani si è quando giovane è 10 anni meno di se stessi, e vecchio e 10 anni più di se stessi. Ad ogni modo, lui, a parte dato che è molto più giovane di me, posso chiamarlo giovane, lui rappresenta la giovane, la nuova generazione, uno studioso che si è dedicato specialmente a studi di storia germanica, studi sul cameralismo tedesco. A me è specialmente caro perché lui, in un certo senso, è anche lui, almeno spiritualmente, allievo del mio vecchio maestro, che vive adesso nella città, come emerito, nella città di Amburgo, Otto Brunn, le cui opere lui ha studiato e anche in parte tradotto e fatto conoscere al pubblico colto, dotto, e agli specialisti in Italia. Dunque, il professor Pierangelo Schiera parlerà stasera su un argomento che in un certo senso si inserisce anche negli studi di Otto Brunn sul problema dell'antica società nobile, Per ceti, ho tradotto io. per ceti, sì, ständische Gesellschaft, sì, l'antica società agraria, feudale, e il trapasso da quell'antica società alla moderna società industriale, la Leistungsgesellschaft, che è un po' difficile tradurre in italiano. Ogni modo, lui anche si è cimentato, a parte i suoi studi propri, come traduttore. Quando si vuol dire traduttore in questi problemi di di storia, di concetti di storia, allora si capisce che è un lavoro che va molto al di là del semplice tradurre con un dizionario alla mano. È una questione molto complicata anche di attività intellettuale. Ad ogni modo, il professor Pierangelo Schiera parla oggi sul tema Rivoluzione, Costituzione, Stato, storia delle idee o storia costituzionale. Giusto? Okay. Sì. Allora prego il professor Pierangelo Schiera di prendere la parola. Grazie, io ringrazio il professor Vandruska, in cui effettivamente anch'io riconosco un tramite verso questo mio maestro ideale che vorrebbe essere, insomma, per me Otto Brunner. Ringrazio quelli che sono intervenuti stasera, il presidente Kessler, i miei colleghi. Ringrazio i miei studenti, per i quali soprattutto mi scuso perché sentiranno per l'ennesima volta cose che hanno già sentito. Il tema di questa sera è stato scelto da me perché è un tema che mi ha interessato negli ultimissimi tempi e quindi davvero questa sera io proporrò solo delle considerazioni di carattere ancora embrionale che ho sviluppato sulla base di una ricerca che per ora si è svolta prevalentemente a livello di letteratura e che spero potrà avere in seguito un approfondimento maggiore sul piano delle fonti. L'interesse per questo tema, che appunto è il nesso rivoluzione, costituzione, Stato, sta nel tentativo di cogliere il significato materiale di un termine concetto che considero cruciale nella teoria prassi politica occidentale moderna, quale quello di rivoluzione. Certo, un tema di questo genere coinvolge immediatamente dei problemi metodologici molto grossi, che sono quelli inerenti alla moderna storia concettuale, alla storia dei concetti, alla moderna Begriffsgeschichte. Ora, io qui non ho evidentemente né il tempo né la capacità di affrontare i sottili problemi collegati alla Begriffsgeschichte, mi limito semplicemente a osservare che molto spesso nella storia delle idee i concetti che si impiegano hanno una rilevanza che va al di là dell'aspetto puramente semantico e coinvolgono rapporti di forza che possono trovare spiegazione solo mediante una lettura di tipo complessivo, globale, costituzionale, attenta cioè a cogliere tutti gli elementi in gioco e soprattutto a stabilire gli opportuni collegamenti fra loro. La serie concettuale che ho proposto nel titolo, cioè Rivoluzione, Costituzione, Stato, si presenta come particolarmente ambiziosa, soprattutto allo stato attuale della mia riflessione in proposito. Ma serve a denunciare, anche se forse in modo un po' forzato, l'ipotesi secondo cui il concetto di rivoluzione ha svolto la sua funzione teorico-pratica prevalente nel contorno caratteristico dell'esperienza politica occidentale moderna, in stretta connessione con preoccupazioni di definizione costituzionale entro lo schema Stato-società a dominanza capitalistico-borghese. Io dedicherò lo spazio principale di questa breve conferenza a discutere il concetto di rivoluzione, che infatti è il mio amore più recente, dando invece per scontato il riferimento allo Stato, più propriamente alla coppia Stato-società, come forma di organizzazione storicamente determinata del potere in Occidente nell'età moderna, e svolgendo invece qualche considerazione in più sull'importanza e sulla peculiarità del richiamo alla Costituzione come termine mediano tra rivoluzione e Stato. In tale senso, e con riferimento al contorno storico di cui tratto, che è sempre l'Occidente europeo moderno, tale discorso coinvolgerà necessariamente l'altro assai complesso della genesi e dello sviluppo della società civile. C'è un problema collaterale a questo discorso che io voglio fare, che è collaterale per me, ma che non lo è in assoluto, ed è il problema della fortuna e della funzione del concetto di rivoluzione nel campo scientifico. E in modo particolare il problema dell'interscambio occorso nei due sensi, cioè tra il politico e lo scientifico e viceversa, in ordine a quel concetto, cioè tra il settore del pensiero scientifico naturale moderno e il settore della riflessione politica. Questo tema da solo potrebbe essere oggetto di considerazioni autonome, in gran parte lo è anche già stato. Io qui mi limiterò ad accenni, rilevando però fin d'ora che proprio l'interscambio accertato fra il mondo scientifico naturale e il mondo politico in ordine al tema rivoluzione giova ad avvalorare l'ipotesi dell'unità fondamentale di svolgimento dell'esperienza politica occidentale moderna, in cui sviluppo scientifico stricto sensu, organizzazione politica e crescita del ceto classe borghese sono termini indissolubili di un processo unitario entro cui soltanto i singoli elementi acquistano il loro vero significato. Tanto da farmi apparire come estremamente problematica la possibilità della loro conversione in direzioni diverse e magari alternative rispetto a quelle proprie del contorno di partenza. Questa osservazione la faccio adesso una volta per tutte, ma però vi prego di considerare che si tratta di una considerazione che per il mio discorso è piuttosto importante, perché anche se io non arriverò a parlarne, è implicita in questa osservazione un atteggiamento critico nei confronti dell'uso contemporaneo ma non troppo, cioè a partire da un secolo in qua, si fa del concetto di rivoluzione. Il termine, che non è solo un termine ma è un termine concetto, rivoluzione, ha rispetto all'Occidente moderno di cui io mi voglio occupare, una preistoria. A parte l'antico riferimento ad Agostino che parlava della pitagorica animarum revolutione, questo termine lo si incontra nel volgare italiano già al tempo di Dante come termine astrologico. La rivoluzione di qualsivoglia figura celeste è il ritorno del sole in quel punto del zodiaco dove si trova a quando fu calcolata la proposta figura. Ma ciò che è peculiare della situazione italiana è il suo precoce uso politico. Nel 1355 Villani lo usa nella sua cronica a proposito della subita rivoluzione fatta per gli abitanti di Siena, dove il fatto sorprendente è l'apparente individuazione anche di precisi soggetti rivoluzionari, gli abitanti di Siena, appunto. Occorre però non accentuare questo aspetto e accogliere invece l'indicazione diffusa nella letteratura, secondo cui l'impiego del termine nei cronisti fiorentini del Cinquecento, come Jacopo Nardi o Benedetto Larco, ad esempio, o anche in autori di maggior rilievo come Machiavelli o il Guicciardini, serve a indicare l'avvenimento di un disordine oppure un cambio di comando senza indurre particolari implicazioni di valore. Qualcuno come Gilbert sottolinea l'importanza svolta dall'astrologia come serbatoio di soluzioni non tradizionali, ma neanche ovviamente consapevolmente moderne, a problemi propri della nuova età, a cui la concezione del mondo medievale, ancorata all'idea di un ordine sociale stabile e scarsamente mobile, non poteva dar più risposta. Gilbert porta ad esempio gli inquietanti fenomeni dell'accumulazione di ricchezze, della concentrazione del potere politico, delle nuove forme di organizzazione militare. Dello stesso Gilbert è il richiamo, solo apparentemente contraddittorio rispetto al precedente, e basta pensare per questo all'interpretazione di Brunner di Gioacchino da Fiore, dell'influenza del motivo escatologico proprio della storia sacra, nel senso dell'incipiente secolarizzazione di quest'ultima in termini di realizzazione mondana dell'età dello spirito. La diffusione europea del concetto di rivoluzione sembra subordinata però a un altro importante fattore, che è proprio del Rinascimento italiano. Il ricorso cioè al tema classico della metabolè politeion, desunto da Aristotele e soprattutto da Polibio, in stretta connessione con l'altro tema polibiano del governo misto, che pure ebbe quell'eccezionale fortuna che sappiamo, fra il 5 e il 600. In questo modo si rafforzò il significato ciclico del termine e perdette rilievo l'eventuale embrione di soggettività rivoluzionaria presente nell'esperienza italiana. come anche così si diluì il carattere amorale proprio del termine, cioè avvalutativo, non dotato di appunto valutazione, che Rosenstock attribuisce appunto all'accezione italiana, trovando in ciò la principale ragione della sua tarda recezione nel Nord Europa. Il contenuto ciclico del termine riceve un'ulteriore imponente spinta dall'apparizione nel 1543 dell'opera di Copernico De Revolutionibus Orbium Celestium. Proprio l'importanza rivoluzionaria di quest'opera, ma anche il frequente impiego che del termine fece nello stesso senso Galileo nel dialogo sopra i massimi sistemi, si prova da una parte l'influsso esercitato in campo politico dal nascente pensiero scientifico, dall'altro introduce un'importante variazione di significato nel nostro concetto che non solo consentirà, ma spiegherà in gran parte la sua fortuna nell'Europa moderna a partire dall'Inghilterra. Per quel che riguarda tutto il problema della fortuna di Copernico, ma soprattutto della dipendenza in qualche modo di Copernico dalla cultura astrologica italiana, padovana, ferrarese, romana del primo Cinquecento, tardo Quattrocento, primo Cinquecento, basta ricordare i saggi, quel che ha scritto Vasoli. L'apparizione nel campo politico europeo del concetto di rivoluzione durante il Seicento è timida, ma comporta già un mutamento rispetto all'uso acritico, puramente descrittivo, italiano. Hobbes parla degli anni 1640-1660 come di una revolution, nel senso di una circular motion, di un movimento circolare del potere sovrano attraverso due usurpatori, dal vecchio re al nuovo re, al suo figlio. Nella Francia di metà Seicento c'è chi parla della révolution naturelle de police. Rivoluzione non sono più le guerre civili, i remuement d'état, e i cambiamenti di fortuna pubblica, di cui parlava Montaigne, ma sono il ritorno allo status quo ante, alla sicurezza precedente. Ciò che si sottolinea in tal modo è il bisogno di una chiusura rispetto all'epoca dei conflitti, e questa chiusura viene vista ideologicamente nel ritorno naturale a un improbabile stato di partenza. La rivoluzione è per Clarendon, inglese vincitore, pura restaurazione, e lo è in certo modo anche per Locke alla fine del Seicento, con la differenza che interviene qui una consapevolezza nuova, ulteriore, decisiva. Il ritorno avviene attraverso o nel nome della giusta Costituzione. Il ciclo è cioè dotato di senso, rapportato a un'analisi dei rapporti sociali, nell'illusione che questi ultimi avessero già trovato in passato un punto d'equilibrio, una registrazione ottimale, poi perduta. E infatti Locke parla della lentezza e della avversione del popolo ad abbandonare le sue antiche costituzioni. La rivoluzione del 1688 in Inghilterra, con il secondo abbattimento della dinastia Stuart, è il ritorno alla vera antica costituzione inglese, nei suoi elementi costitutivi, il re, i lords, i comuni. Koselleck dà una spiegazione accattivante, di stampo brunneriano, della latitanza di un uso consapevolmente politico, nel senso moderno, del concetto di rivoluzione nell'epoca fin qui considerata. Ciò corrisponde, secondo lui, secondo Koselleck, a una struttura sociale ordinata per ceti, di stampo sostanzialmente immobile, in cui può avvenire cambiamento di governo, ma senza conseguenze dirette e comunque non di breve periodo. Non c'è nulla da rivoluzionare, insomma. L'unico criterio che governa la conflittualità sociale, che è una conflittualità di cittadini fra loro, di cittadini qualificati in modo cetuale, cioè per ceti e non in quanto individui, è il diritto di resistenza. La rivoluzione ha perciò un contenuto metastorico, si muove in un tempo fisso, è un concetto, come dice Rosenstock, fisico-politico. Ma è proprio il diritto di resistenza che Hobbes vuole evitare. A questo serve, in ultima analisi, la sua rivoluzione come moto circolare. Dopo due usurpatori, ecco che torna il re. E varrebbe forse la pena di sottolineare la valenza costituzionale che ha il patto sociale in Hobbes. L'ipotesi di Coselle è bella, non c'è niente da dire, per quel che riguarda la preistoria della rivoluzione. Ha forse però bisogno di integrazioni per il periodo successivo. Si deve cioè compiere lo sforzo, nella sua stessa linea, di tracciare paralleli fra l'evoluzione del concetto e i successivi mutamenti costituzionali. L'affermazione timida ma sicura della rivoluzione come concetto politico nel corso del Seicento corrisponde alla consapevolezza nuova di un'istanza unitaria, di un'uscita per ora mascherata dietro un ritorno al passato. Ma la chiave di lettura è proprio data dal riferimento alla Costituzione compiuto da Locke. Una volta compiuto il collegamento fra rivoluzione e Costituzione, la prima si consolida in un evento epocale, finalmente non più metastorico, ma relativo agli uomini e compiuto dagli uomini. La seconda si traduce in precise indicazioni politico-organizzative, che si concretizzano da una parte in indicazioni sul piano politico-organizzativo, lo Stato, e dall'altra sul piano della vita collettiva, la società. Nel Settecento, soprattutto all'opera dell'illuminismo francese, il concetto che abbiamo visto di origine astrologica e di impiego dominante in senso astronomico o geometrico, si allarga sempre più a coprire un ambito molto generale di attività sociali, politiche, economiche, intellettuali o culturali. Prevale in esso sul significato originario di andamento ciclico, di mutamento circolare, che tocca gli uomini ma non li riguarda attivamente, il significato nuovo di evento epocale, di avvio di un'età nuova antitetica a quella passata. Il nuovo significato si sostanzia, anzi consapevolmente, in due stadi, di cui il primo consiste nell'abbattimento del vecchio ordine e il secondo nella costruzione dell'ordine nuovo. L'aspetto saliente è che, anche quando, come spesso accade, il termine viene riferito all'evoluzione scientifica, è apertamente presente in esso una connotazione politica. Anche in quel caso si tratta di una rivolta contro un pensiero tirannico e dell'instaurazione di un pensiero nuovo e felice. La metafora, cioè, cambia segno. Sono i contenuti politici a dotare di senso gli avvenimenti rivoluzionari, anche in campo scientifico, e non più viceversa. Non è dubbio che questa lettura rovesciata trovò un importante stimolo nei grandi fenomeni di ribellione che attraversarono l'intera Europa nel corso del Seicento. Dall'Inghilterra alla Catalogna, dal Portogallo all'Olanda, alla Germania, all'Italia. E qui vorrei evidentemente d'obbligo il riferimento alla famosa polemica di Past and Present sulla crisi in Europa, no? Ecco, cioè il mio intento, cioè quello che vorrei studiare, è proprio il concetto di rivoluzione inteso in un modo diverso da quello in cui lo usano tutti gli autori che sono intervenuti in questo tipo di polemica, a partire da Trevor Roper, no? Cioè, qui parlano di rivoluzione riferendosi appunto a tutti gli aspetti, a tutte le fattispecie della crisi in Europa nel corso del Seicento. Cioè, trasferiscono in modo acritico il concetto di rivoluzione a questo periodo della storia europea che torna alla metà del Seicento, senza porsi in realtà il problema di vedere se in che modo questi fenomeni fossero considerati come fenomeni rivoluzionari o fossero inquadrati dentro alla categoria rivoluzione. Il mio intento invece sarebbe quello di mostrare come in realtà il concetto di rivoluzione sia un concetto che ha una sua valenza precisa che non può essere alterata applicandolo a fenomeni che avevano un altro segno. Quindi io sono d'accordo, con, per esempio, con Trevor Roper quando dice che il nucleo, il punto cruciale della crisi della metà del Seicento era defiance a livello di struttura per quel che riguardava proprio la relazione tra Stato e società. Infatti io parlo di Stato e di Costituzione, ma non sono d'accordo a considerare quei fenomeni come rivoluzionari. In realtà la rivoluzione per i contemporanei non stava nei singoli fenomeni di ribellione, ma stava nel compimento del processo che consentiva di superare i fenomeni di ribellione. Cioè stava nel percorso ciclico in grado di chiudere il momento della crisi. Non stava nella crisi, ma nella fine della crisi. Questa era la rivoluzione per i contemporanei. E questo concetto permane, come sto cercando di dire, anche per il secolo successivo. Certo che il problema del political change diviene di attualità nel corso del Seicento. La diffusione del fenomeno spinse in secondo piano la dominanza ciclica ed esaltò il problema del mutamento. È emblematico di questa trasformazione l'atteggiamento di Walter Hoyle nel suo saggio sulla Costituzione e il governo dello Stato romano, che pur applicando il classico ciclo polidiano, che anzi lui proprio definisce come Great Revolution, come grande rivoluzione, non lo spiega più facendo ricorso a ragioni morali, l'alternanza di vizi e di virtù. Quindi la vecchia teoria secondo cui i regimi buoni degenerano in regimi cattivi proprio per il fatto che i vizi hanno il sopravvento sulle virtù, bensì individuando materialisticamente il perno del mutamento in quello che lui chiama il change, il cambio dell'unico vero fondamento del potere. Due punti, la proprietà. L'idea ancora qui è, e lo rimarrà ancora a lungo, che il ciclo non possa essere arrestato, ma le approssimazioni progressive ai dati materiali del mutamento, abbiamo visto il richiamo alla Costituzione in Locke, e ora sottolineo qui il richiamo alla proprietà, aprono la strada al concetto propriamente moderno di rivoluzione, che implica l'individuazione del soggetto rivoluzionario. Quest'ultimo prenderà consapevolezza di sé proprio su quel piano. Qui basta richiamare i famosissimi libri, anche in Italia, forse più in Italia che in Germania, di Koselleck e di Habermas, no? Sull'origine dell'opinione pubblica, insomma, della società civile e così via, per così, intuire di cosa sto parlando. È già stato osservato, d'altra parte, che anche nell'ambito della concezione ciclica di rivoluzione, l'atto finale del ciclo era venuto assumendo un rilievo pressoché autonomo di evento epocale. Basta pensare alla Glorious Revolution del 1988, che conclude un ciclo che era durato 40 anni, anzi più, ma che si condensa come momento rilevante e quasi autonomo proprio nel momento finale. No? E comunque per questa via, cioè quando tale atto finale sarà consapevolmente collegato a riferimenti materiali specifici propri di soggetti precisamente individuati, che il concetto moderno di rivoluzione si affermerà. Progressivamente l'elemento epocale avrà il sopravvento sul dato ciclico, ma il persistente condizionamento ciclico farà sì che lo sbocco rivoluzionario venga inteso come definitivo, immodificabile, eterno, come la conquista ritorno finale all'età dell'oro. Quanto questa conclusione si intrecci con la contemporanea affermazione dell'idea di progresso e l'altrettanta contemporanea messa a punto del pensiero storico moderno è evidente, anche qui non mi resta che citare Otto Brunner. Basterà ricordare che Turgot scorge proprio nel progresso, divenuto ormai inarrestabile, il modo per interrompere l'eterno andirivieni del ciclo rivoluzionario. Un altro dato interessante che può essere rilevato, che è scontato, ma che però vale la pena di richiamare, è che la diffusione della moda del concetto di rivoluzione avviene sia nel corso del primo Settecento, già nel corso del Seicento, poi nel corso del Settecento e del primo Settecento, poi ancora in maniera amplissima nel primo Ottocento, grazie ai canali storiografici. cioè sono gli storici che parlano delle rivoluzioni, che diffondono in maniera proprio empirica la moda del concetto. Qui interessa invece di più accennare, in modo meno evasivo, fare qualche accenno alla base costituzionale che sorregge questo processo. E questa base naturalmente è quella dell'affermazione della moderna categoria della società civile. E naturalmente questo comporta anche il richiamo al consolidamento della struttura istituzionale dello Stato moderno. Ecco, per partire dall'ultimo punto, Stato moderno, ancora Koselleck è di aiuto, sempre in questo saggio sulla rivoluzione che lui ha pubblicato sul Studio in Generale, nel riproporre un'ipotesi, questa volta più schmittiana che brunneriana, dello Stato come controconcetto di guerra civile, in quanto capace di distruggere tutti i titoli giuridici propri dell'antica società per ceti, che comprendevano la faida come la legittimità della contrapposizione confessionale. Senza insistere su questo punto, va rilevato il rapporto esistente tra il concetto protomoderno di rivoluzione e quello di Stato, al punto che secondo Koselleck la stessa rivoluzione acquista, in questa prima fase dell'età moderna, l'aspetto di controconcetto rispetto alla guerra civile. È un controconcetto. È l'uscita gloriosa dai conflitti intestini con il ristabilimento di condizioni costituzionali ottimali che segna, che dà corpo all'idea di Costituzione. Nell'enciclopedia si tratta della guerra in 8 rubriche diverse, ma non c'è mai cenno alla guerra civile, alla guerra civile. Ciò corrisponde, ma anche spiega il significato globale ormai attribuito alla rivoluzione. Tout est révolution dans ce monde, scrive Lucien Sébastien Mercier nel 1672. Tutto è sottoposto al processo rivoluzionario: costumi, diritto, religione, economia, paesi, stati. Se l'articolo Révolution dell'Encyclopédie è prevalentemente dedicato al caso inglese, a testimonianza del prevalente interesse politico, le più interessanti osservazioni sul fenomeno sono fatte in altri articoli, con riferimento ad aspetti non direttamente politici. In primo luogo quello del pensiero scientifico moderno, ma con implicazioni culturali generali in termini di evoluzione del pensiero umano verso la libertà e la ragione. Il discorso preliminare di D'Alembert fissa la successione Bacone, Cartesio, Newton, e di Cartesio dice che fu un leader di cospiratori che ebbe il coraggio di sollevarsi contro un potere dispotico e arbitrario, ponendo nel preparare una rivoluzione di vasta risonanza i fondamenti di un governo più giusto e felice che egli non fece in tempo a vedere. Questa chiusa del che egli non fece in tempo a vedere è un elemento interessante, perché si ritrova in realtà anche in Rousseau, anche in Voltaire, e dà l'idea di questa dimensione permanente, di lungo periodo, di quasi di atemporalità, che il concetto di ciclico, insomma, che il concetto di rivoluzione continua ad avere. Ci sono anche delle pagine bianche in fondo. Lo stesso D'Alembert, nell'articolo Experimental, insiste sul significato globale e di lungo periodo della rivoluzione, partendo sempre dal caso del moderno pensiero scientifico, e dice, riprendendo appunto l'osservazione che facevo poco fa: infatti, quando i fondamenti di una rivoluzione, una volta che i fondamenti di una rivoluzione sono stati gettati, è quasi sempre nella generazione successiva che la rivoluzione si compie. E il nesso fra i diversi aspetti del fenomeno rivoluzionario è ben espresso da Condillac quando scrive: le rivoluzioni delle opinioni fanno seguito alle rivoluzioni degli imperi. Sembra quasi che ora l'andamento ciclico di rivoluzione non si applichi più alle diverse fasi del suo processo, ma ai diversi settori della totalità umana a cui essa si riferisce. Per finire con una notazione un po' estemporanea sul rapporto rivoluzione-Stato, vorrei citare una frase del 1764 di Lalande, che parlando della rivoluzione in astronomia dice: tutte le nazioni si disputavano la gloria di scoprire e di perfezionare. L'Accademia delle Scienze di Parigi, la Società Reale di Londra, ebbero soprattutto la parte maggiore in questa rivoluzione. Il numero dei personaggi illustri e degli astronomi celebri che esse hanno prodotto è immenso, dove non vale nemmeno la pena di sottolineare il ruolo attribuito a quei tipici organi statali di programmazione della ricerca che furono le grandi accademie nazionali nel 6 e nel 700. E adesso tocca affrontare brevemente il problema della moderna società civile e del suo rilievo costituzionale in ordine al significato pieno del concetto di rivoluzione. Qui ho scritto che il discorso è molto complesso ed è vero. Qui cosa si può osservare? Che, secondo me, l'intero Settecento europeo è attraversato da una ventata di interesse per un aspetto nuovo della conformazione sociale, che è quello delle forze costitutive che la compongono. Gli esempi allo scopo sono numerosissimi e benché si muovano per linee differenti, da situazione a situazione, sono in qualche modo riconducibili a un minimo comune denominatore. Dall'emergenza del concetto di interesse in Inghilterra, nel senso di passione individuale orientata a un bene collettivo, alle discussioni sul ceto civile nell'Italia, del Regno di Napoli, ma non solo lì, alla trattatistica cameralistica tedesca, alla produzione illuministica francese. La preoccupazione comune è quella di fissare nuovi motivi di legittimazione della vita associata, imperniati su aspetti non considerati dalla concezione tradizionale e ora in procinto di divenire dominanti. Montesquieu parla della douceur du commerce. Wolf e Schwarz cantano le lodi della materielle Glückseligkeit. Francesco D'Andrea, che è un più modesto avvocato napoletano, perde il suo tempo a celebrare i meriti dell'avvocatura. La modern economy, l'economia moderna, cantata dallo scozzese Stuart, come la briglia più effettiva mai inventata contro la follia del dispotismo, è tutto un tripudio di riconoscimenti a momenti fino allora ritenuti secondari nell'attività umana, o al più relegati in una sfera costituzionalmente irrilevante. Ora invece su quegli aspetti si svolge l'analisi di nuove forze sociali e la Costituzione viene vista come il risultato dei rapporti corretti fra di esse. Si afferma progressivamente la distinzione fra civilis e politicus, dove il primo termine denota specialmente il sociale, cioè la rilevanza sociale dell'individuale, e il secondo l'apparato statale, che non a caso ancora lo scozzese Stuart dipinge come governi che sono condotti sistematicamente, costituzionalmente e per leggi generali. E infatti aggiunge: i principi che io sto indagando, e lui sta presentando la sua opera che è intitolata Inchiesta nei principi dell'economia politica, i principi che io sto indagando riguardano la fredda amministrazione di questi governi. The cool administration, dice. Montesquieu, in questi anni, afferma che una società non potrebbe esistere senza un governo, e poi aggiunge, richiamando un giurista italiano napoletano della fine del Seicento, il Gravina: La riunione di tutte le forze particolari forma ciò che si chiama lo Stato politico. La riunione di queste volontà è ciò che si chiama lo Stato civile. Conta è rintracciare, individuare, misurare, definire queste forze e queste volontà. Il risultato è la Costituzione giusta. Per realizzarla, secondo un processo storicamente sopradeterminato, ma contemporaneamente anche epocale, ad opera della ragione, dell'uomo, occorre la rivoluzione. Si rovescia, secondo i canoni giusnaturalistici, il rapporto fra naturalis e civilis. Non è più il primo la garanzia del secondo, ma viceversa. L'uomo e la società vanno civilizzati, e di nuovo si incontra il macroconcetto di rivoluzione proprio dell'illuminismo, che ha saputo superare l'angusto campo scientifico di partenza, senza però farsi rinchiudere nell'altrettanto angusto campo del politico, salvando così, come ho spesso sottolineato, sia il senso ciclico che quello epocale dell'avvenimento rivoluzionario. Stuart aveva parlato di leggi generali e i nuovi uomini civili del Settecento si accingono a formularle, queste leggi generali, anzi a codificarle, il che di nuovo rimanda alla continuità del processo di incivilimento e della stessa rivoluzione. L'Allgemeines Landrecht prussiano del 1794 recita nei suoi primi articoli, parte prima, titolo primo, così. Articolo 1. Si dà all'uomo il nome di persona in quanto gode di certi diritti nella società civile. Articolo 2. La società civile si compone dell'insieme di più società parziali o classi, riunite dalla natura o dalla legge, o da entrambe insieme. Articolo 6. Le persone che, a causa della loro nascita, della loro destinazione, della loro principale occupazione, ottengono diritti simili nella società civile, compongono insieme una classe dello Stato. Articolo 7. I membri di ciascuna classe hanno, particolarmente considerati tali, diritti e doveri loro propri. Articolo 9. I diritti e i doveri delle diverse classi dello Stato sono determinati dalle loro relazioni fra di loro e dai loro rapporti con il capo dello Stato. Voi direte che non siamo molto avanti rispetto al Ständische Gesellschaft, ma io però ho voluto usare, per tradurre in italiano, non l'originale tedesco, bensì la traduzione della Allgemeines Landrecht fatta nel 1798 per cura dei membri del Bureau de Legislation Étrangère e publié par ordre du ministre de la Justice, Paris, de l'Imprimerie de la République, en 9e. Siamo in mezzo alla rivoluzione francese. In realtà, per quanto siano evidenti tracce cospicue di una stratificazione sociale per corpi o per ceti, il quadro che risulta da questi articoli, sempre risulti, per questi articoli della Allgemeines Landrecht è completamente cambiato rispetto all'antica società per ceti. La Costituzione ora non consiste più nella compresenza statica di corpi sociali sistemati gerarchicamente e tenuti insieme da rapporti di forza diretti fra loro mediante una pace basata sullo sfruttamento legittimo o un conflitto basato sul diritto di resistenza. Essa consiste ormai dalle relazioni delle diverse classi fra loro e dai loro rapporti con il capo dello Stato. Queste relazioni e questi rapporti sono suscettibili di essere colti razionalmente nella loro dimensione ottimale e di essere tradotti in pratica mediante un'azione politica efficace. Qui sarebbe facile il richiamo del francese Mirabeau in questa sua relazione, non si può chiamare operetta, che è proprio l'analisi raisonnée del codice della Allgemeines prussiana, che è stata pubblicata in edito, pubblicata recentemente in Italia, un'opera che risale all'88-89, in cui è costante il richiamo alla masse constitutionnelle, alle partie constituantes du système national e così via. In realtà la risposta diretta a questo problema la fornisce in maniera semplice, appunto rivoluzionaria, Sieyès, nell'esordio della sua operetta famosa. Primo, che cos'è il terzo stato? Tutto. Secondo, che cosa è stato fino adesso nell'ordine politico? Niente. Terzo, che cosa domanda? Di essere qualche cosa. E così hanno fatto la rivoluzione francese. Io a questo punto sono arrivato appunto alla rivoluzione francese e tendenzialmente sarei portato a chiudere il discorso, nel senso che ho l'impressione che è solo fino al grande evento rivoluzionario dell'89 che si può parlare con proprietà del nesso storico fra rivoluzione, costituzione e Stato, che io ho scelto come argomento della mia relazione. In realtà nel corso dell'Ottocento il processo si complica enormemente. E la mia impressione è che nel corso dell'Ottocento il nesso che ho fissato salti. Il problema che rimane aperto e che avevo affacciato all'inizio della mia relazione è questo. Cosa succede una volta che il nesso salta? Qual è il destino dei singoli concetti implicati in questo nesso? Se questi concetti avevano assunto e acquistato il loro significato peculiare, specifico, in quel nesso, cosa accade di loro? Cosa può accadere di loro una volta che il nesso salta? E che il nesso salta è fuori di dubbio. Secondo me lo si può vedere anche in modo veramente molto schematico e rapido, dai due punti di vista, diciamo così, che hanno segnato la storia nostra, occidentale, moderna, dalla fine del Settecento fino ad oggi, cioè dal punto di vista borghese e dal punto di vista invece dell'alternativa, diciamo così, di tipo marxista. Per quel che riguarda l'alternativa e il punto di vista borghese, mi sembra indubbio che il concetto di rivoluzione è stato progressivamente abbandonato, accantonato, in nome di un concetto che si presentava come più facilmente utilizzabile agli scopi di conservazione, di mantenimento del potere che la borghesia come classe andava o aveva ormai acquistato. Cioè il concetto di rivoluzione. Il concetto di rivoluzione si diluisce progressivamente nel concetto di evoluzione. Non solo, ma in realtà alla fine il concetto di rivoluzione viene sostituito in maniera operativa, in maniera costituzionale, direi, dal concetto di riforma. Secondo me la sintesi, insomma, di questo andamento la si può trovare in un personaggio, nell'opera di un personaggio emblematico come è Lorenz von Stein, per esempio, ma d'altra parte secondo me ci sono riscontri importanti in questo senso anche in Tocqueville, in cui noi cosa vediamo? Vediamo l'interesse iniziale di partenza per l'esame del concetto di rivoluzione, degli stessi avvenimenti rivoluzionari che vengono sottoposti a indagine storica e anche sociologica particolarmente approfondita. Dopodiché, proprio per esorcizzare questo evento traumatico e definitivo che è l'evento rivoluzionario, Lorenz von Stein impianta un meccanismo che lui presenta e che ha oggettivamente, secondo me, un rigore scientifico, ecco, un meccanismo che prevede proprio il ricorso all'intervento del potere statale, in modo specifico proprio del potere esecutivo, in modo da impedire che il conflitto di classe che Stein riconosce, che anzi forse è il primo a formulare in termini precisi ancora prima di Marx, degeneri nella necessaria sopraffazione di una classe sopra l'altra. Ecco. In questo modo, secondo me, in Stein noi abbiamo veramente un po' quella che è la più compiuta affermazione della teoria prassi borghese in ordine a questo problema del nesso fra rivoluzione, costituzione e Stato. Cioè, il termine rivoluzione viene espunto e i due termini, rivoluzione e costituzione e Stato, si sovrappongono. Nel senso che la Costituzione viene una volta per tutte normativizzata, si passa ad una Costituzione scritta che come tale viene presentata come rigida, come immutabile. La Costituzione scritta è la base dello Stato. Stato e Costituzione si identificano, la rivoluzione scompare. Dal punto di vista marxista il processo è dello stesso tipo anche se ha segno diverso. Dal punto di vista marxista si ha l'espunzione dei due concetti di Costituzione e di Stato. Costituzione e Stato diventano l'elemento fondamentale di attacco. Cioè è contro, nei confronti della Costituzione, intesa come società civile, come modo di posizione capitalistico, come insieme di rapporti sociali a base capitalistica, nei confronti di questo concetto qui, che è economia politica, Marx sviluppa evidentemente tutta la carica eversiva, gigantesca, della sua critica, no? E qui lo Stato rimane come effettivamente nemico da battere. Lo Stato è l'espressione più diretta, più manifesta, è l'agente d'affari di questa Costituzione, di questa economia politica, di questo capitale che sta dietro. Questi due termini diventano proprio il momento da espungere. E invece viene assiomatizzato il discorso della rivoluzione. Ecco, il corso dell'Ottocento, fino alla fine dell'Ottocento, fino alla rivoluzione forse di ottobre, secondo me è dominato da questa vicenda, cioè dal nesso che ho cercato di indicare, insomma, tra rivoluzione e Costituzione è stato presente nel 6 e nel 700, vengono fuori diversi processi che hanno però lo stesso significato, cioè l'assolutizzazione di uno dei termini in gioco, lo Stato da una parte e la rivoluzione dall'altra. Cosa vuol dire questo? Io sinceramente non lo so, ho solo delle vaghe impressioni su che cosa questo voglia dire. A mio avviso questo significa una cosa, tanto per cominciare. Significa che è improprio, cioè è estremamente difficile, è estremamente pericoloso e rischioso continuare ad usare, dopo un andamento di questo tipo, un termine concetto come quello di rivoluzione senza rendersi conto di tutto il significato, la complessità che questo termine aveva, ma ha ancora, in rapporto appunto agli altri due termini Costituzione-Stato. E il secondo elemento che viene fuori da queste considerazioni, un po' episodiche insomma che sto facendo, è che forse vale la pena di meditare su un altro aspetto, su un'altra questione, che è sollevata ancora una volta da Koselleck, ma che in realtà era già stata sollevata anche da Carl Schmitt, ma che non a caso ha trovato un riscontro notevole anche nell'ambito del pensiero marxista più recente, e in modo particolare nell'ambito di quella strana fattispecie, di quella fattispecie del pensiero marxista che è stato il pensiero maoista, cioè il discorso della rivolta. Koselleck dice, e Schmitt, ma ricalcando Schmitt, dice: con la crisi dello Stato, con la crisi della sistemazione costituzionale a dominanza borghese tra 8 e 900, viene meno quella capacità, quella funzione anticonflittuale per cui lo Stato era nato, antiguerra civile per cui lo Stato era nato e per cui era nata fondamentalmente anche la rivoluzione. Anche il concetto di rivoluzione. È inevitabile che a questo punto quel concetto di rivoluzione che all'inizio, come ho detto anch'io, appariva come controconcetto rispetto a rivolta, rispetto a ribellione, rispetto a sommosse e così via, si tramuti invece proprio in ciò. Cioè che la rivoluzione si trasformi in rivolta, in sommosse, in ribellione. Sembra che all'interno del pensiero maoista il discorso della rivolta come momento centrale del pensiero marxista sia un fatto importante. Io qui non ho bisogno di evidentemente ricordare a chi mi ascolta l'importanza, il rilievo che oggi il tema della rivolta ha in tutti gli aspetti della nostra vita. No? Io non so dare una risposta conclusiva, ecco, al problema che ho sollevato. Certo sono convinto che questo problema della rivolta non possa essere affrontato e risolto in termini meramente empirici e neanche in termini di mero rifiuto della rivolta. Credo che forse proprio una analisi approfondita sul rapporto esistente fra la rivolta e la rivoluzione, proprio attraverso un'indagine storica che ci consenta di capire il significato e il ruolo che la rivoluzione ha svolto nell'ambito della storia moderna, forse potrebbe consentirci di capire anche meglio che cosa le rivolte di oggi sono. Grazie. Ringrazio molto il professor Schiera per la sua conferenza di così vasto respiro e di così che ha sollevato tanti problemi, tanti dato tanti, come si dice in tedesco, Denkanstöße, non saprei come tradurlo, in stimoli di pensiero e idee originali che avete visto come sono nati da un lato dalla grande tradizione occidentale fino dall'antichità attraverso Sant'Agostino fino al 500, fino ai grandi pensatori italiani del 500-600, alla rivoluzione inglese, al problema della rivoluzione inglese del 600, a tutto il problema di quel grande cambiamento di pensiero del 700, fino ai problemi attuali e moderni, con tutto il largo respiro e tutta la discussione in atto con persone come appunto i grandi maestri anche della storia sociale germanica come Brunner, Koselleck e altri, con, fino ai problemi della società moderna, il problema del concetto di rivoluzione culturale. Ringrazio di nuovo il professor Schiera per la sua stimolante e interessante relazione. Credo che sarà forse troppo tardi per una discussione, o se si chiede una discussione. No. Vuole? No. Vuole? No. Non so, forse. No, non vuole. Allora continueremo le discussioni private. Vedo con gioia e piacere tanti studenti, tanti giovani, e sono contento che le nostre attività hanno così una vasta eco anche nel comune, nell'ambiente trentino, tanto vivo e vivace, come oggi è già la seconda manifestazione culturale storica di questa sera, dopo la presentazione degli atti del convegno su Cesare Battisti. E di nuovo tante grazie al professor Schiera.